ciao. Anche che tenesca la braghetta, tenesca. Ce ne sono tanti in circolazione, Ussi, Bloaghe. Io non ne conosco manco uno, perché per principio questi bussi non vado. Non sapevo una cosa, alla volta facevo la lavoro e basta. Ah, io se lo farei proprio per dare meno sfitto, perché sono menato e vorrei vedere come sono fatti dentro, eccetera, eccetera. Ma se no, amico che ci ha dato ci ha speso una marca di soldi, una marca. Tu ti ricordo di Lex Rotang? Rotang, sì. Lì c'era un net prima, dopo. C'è anche uno in viale Polotorio, perché passando, tornando da Alghero una volta, sono passato a viale Polotorres e visto che c'è un night, c'è la tipica luce del night. No, quello... No, quello è Blue Sax, c'è tu. No. Hai visto dove c'è quel negozio, quello che aggiusta le moto, a fianco? No, ho capito, Ma quello c'è nuovo, eh? Ce ne deve essere un altro sul Cavalcavia, un locale tipo questi qua. Ma ce n'era uno vicino a Portore, se ce n'era anche. Ah, vicino a Portore già lo so qua, perché c'ha le violi. No, e poi c'è anche un altro, a Portore pure. Ma se tu ti conosci. Se tu ti sei irati, dopo dici che non è andato. E voi che cazzo devi buttare? E al lingua l'ho preso e l'ho fregato, Cristian! Era Giovincello, mi fumava il cervello a quell'epoca. E lui si confessando. Tu Fabi sei mai andato a parte di schifo? Bello ancora. A parte la muffuratura, tu è andato, Sessi? E qualche volta. No, a Fabrizio, a me com'è l'ambiente? Io non so manco chi ci frequenta, se ci sono uomini grandi o che cosa. Io avevo molto saltato per curiosità, poi ti posso dire che un'inedita schifezza, chi frequenta sono ubriaconi, raramente vedo una persona a posto, capito? Ne potete trovare una su mille, altrimenti è più ubriaco, buccionale, c'è gente da cercare il senso, tutti poveracci sono. Quelli sbandati, là, quelli che proprio non hanno alimento. Ma tanto non fanno niente lì, non penso che facciano niente. Ah, ritorno quasi mai, capito, forse cose. Sono lì, cercano di catturarla, però ci spendono una barca di soldi e magari più di una volta non ci fanno niente. No, ma ci sono i privati, perlomeno questa amico mia ha chiesto di andare in privati a questa ragazza, sono saliti su. Per mezz'ora non so se l'ha bisgato 150 euro. Sì, magari avrei avuto una bottiglia, poi gli fai tipo spogliarelli così, capito? Te ne fa 50-70 euro per lo spogliarello e tu rimani con la bamba, la bocca. Ehi, ma se non te ne vedi, cioè ti metti a ridere e proprio capisci quanto può essere imbecille uomo, cazzo. Lo so. Sono cose che incantano, c'è poco da fare, la canna è debole, diceva quello. Lo so, però vedete si gioca l'anima, non penso che arrebisciato. Cioè, questa gente non svenarsi in quei posti, eh. Quello già non ci metto piede. No, non mi sono mai andato. La verità, la curiosità ce l'ho. Di vedere che cosa c'è, ma non... Meglio non metterci piede in questi posti qua, anche perché... So una volta che un'amica ha dato per curiosità e cose, ho passato la polizia, poi si sono detto che tutte le macchine che c'erano parcheggiate, tutta dentro, cose, questo, quell'altro, questi documenti. E si faceva cose, boh, per mania, gura. No, lì vanno gente che ha soldi, si sono via la vita in 6 mesi, con capitale di un mese di là. Lo so. E allora, dice poca gente della traccia che poi ci dice che ho messo. Già. Eia. La maggior parte vanno in questi posti perché secondo loro sono conquiste più facili, capito? Ma se gli vedete qualche soldino, normalmente il cazzo si conquista più facilmente secondo loro. perché non sono capace di uscire con un'altra ragazza tranquilla al di fuori di questi ambienti, capito? Però purtroppo escono perché non la sono. Lo so. C'è molta gente felice comunque, c'è gente separata, che magari c'ha problemi, che si vuole svagare, che vuole passare una serata diversa, la prende diversamente da come stai dicendo, va. Magari gente che la moglie la buccia in gorra, cosa ne so, o si è separato, si era fidanzato a tanti anni e si è lasciato, capito? Ma proprio per dimenticare lo fa. Lo so, però ripeto, per trovare uno su mille a posto, proprio ovviamente così si fa una cosa, basta mettere senza diciamo secondi fini, altrimenti sono tutti quanti dei poveracci, tutti smandati, bucciare. Però è poche volte sono entrato, ti ripeto, per curiosità così, però le vie di certe che proprio al limite del non so come definire, poveracci, proprio. Gente poi viene presa per il culo a queste persone. Lo so. Ma beh, mi ha detto che ce n'era uno dietro la landriga lì, tipo una vita, dice che fanno solo spogliarello però. Io so, ormai si ce n'è andato già da ragazzo, guarda che c'era la discoteca prima lì, dove c'era la discoteca? No, io non ci sono mai andato, a verità. Io in discoteca andavo a Proaghi, a Ussi, andavo di cuore a Proaghi quando c'era, adesso non c'è più mi pare, a Ussi, a Scalarruia, insomma andavamo a Castelsardo d'Avento, qualche volta a Valleduria, però lì non siamo mai andati. Anna Intendei si chiamava, una discoteca, tu appoggi la piazza Landriga, no? Giri a destra, nella pezza della piazza, e ti tieni sulla destra, fai 50 metri, c'è una specie di villetta, là. Era un bel locale, io entravo nella discoteca, era una discoteca quella lì, È grande? È abbastanza, capito, forse tra la settantina sarà una volta e mezzo il coso, come si chiamava, l'Atrium, si è entrato all'Atrium. Entrato, ballato, fatto, ci sono stato un bene volte. Cosa stavo dicendo? Comunque un amico che ci è andato mi ha detto che c'erano delle russe favolose, delle russe che facevano spogliare, diceva, mi ha portato un amico e ha delle russe altissime, chiari, bionde, alte, belle stangone, dice. Oggi all'est quelle russe, le ceche, queste persone, le croati sono persone belle, difficilmente sono una brutta, però purtroppo quelle fanno con i dinari, difficilmente si innamorano del portafoglio. E dopo che ti spennano tutto, ti mollano, ti sposano per avere la cittadinanza, durano il tutto dato un conto e dopo ti mollano. Io già, finiti i soldi, finito amore. Sì, è successo anche uno che conoscevo io, che non è un imbecille, un imbecille. Si era innamorato tutto di questa ragazza, se l'aveva sposata, aveva avuto un figlio, tutto quanto, ne aveva mangiato tutti i soldi dal conto, perché hanno messo il conto a nome di tutti e due, mangiato tutti i dinari, una cosa di soffrire di dinari, ha pigliato un bicchiere e si è fuggita. Ecco per me. Scappa. È così, caro Gianni, purtroppo quando si ha che fare questa persona, ma sono tutte così, la petrovare, ma quelli fili in quell'occhiale dentro la petrovare, una su mille, ma devi prendere che diciamo che è appena entrato in questi locali, perché se ci hai già fetterana, c'è più che certo che ti possono ben fottere. Gianni, io sono il messaggio su questa cosa tua. E io metto la scopa sto canese, Dai, scendi scalzo, dai, lascio io lo scalzo. Dai, lo ti vuoi portare, sarò cane turno. Bombolino. Bombolino. Ma lo cane che c'è, c'è nella portatore, ma è andato, Sì. Vabbè. Quello che c'è vicino a Angelo, prima di Angelo. No, negativo, ma dove rimane? Fuori il parlatore. Ma non l'ha chiesto il turno, di fronte agli uni, prima di... Sì. Scendere di fare. Ah, ho capito, no, negativo, non sono in trappole. L'hanno chiuso e l'hanno ritornato a aprire. Come? L'hanno chiuso, non so perché cosa l'hanno chiuso. E l'hanno riaperto. Vabbè, ma sono posti strani, proprio che ambientacci. Bombolino. Andrea Bombolusso. Luca. Questi molti sono, li hanno tutti addormentati. Per oggi è lunedì, domani, ma sì, per quello, stanno riposando oggi. Che ho lavorato oggi? E per quello non è che... Che sei così stanco? Oh, ma a me stai dicendo? No, sono tutto aumentato sono. Ma cioè, chi ha lavorato oggi tutto il giorno? E buono, sono ancora attivo. Ma loro non fanno il lavoro che fai tu. Perché io sono Fabio, E vabbè, ma il Fabio... Quello che fanno loro è più pesante. Il Fabio è così, è un gioco. Sì, un gioco. È un brutto gioco fare il fab, stai tranquillo. Ce l'hai la... il capannone? No, io lavoro con un amico. Come si chiama? Lavoravo con Giovanni Mura. Ho lavorato e poi faccio vedere i contatti miei. Fatti tu, no, io sono che adesso conosci Liguni. Non lo so, il cognome non lo conosco. E c'ha la... Io facevo anche PVC e alluminio, ma che ho fatto, non solo ferro. Si fanno di tutto, fanno ferro, alluminio, di quello che infatti la... c'è una rinzata di torre di torre, c'è la semaforo, sino con le case popolari hanno fatto la ringhiera loro, l'hanno fatto. No, io conosco tutti quelli di Sassi, li conosco, quelli di Palazzo non li conosco, è la verità. 1-2-3 prova radio, 1-2-3 prova radio. Avanti, capo! Anni, dove sei? Siamo in due. Parlare. Già, un minuto sto scendendo. Aspetta un minuto, non parlare solo. Attenzione, canale 1.